Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Trasportare medicinali, sfida contro il tempo. Di Andrea Ferro. È la storia di un'impresa che viaggia sulle strade e lungo il tempo, afferrando le opportunità di un mercato in continua evoluzione. È la Romano Trasporti, un marchio affermato nel settore della logistica dei medicinali. L'impresa affonda le radici nella tradizione di famiglia e nel territorio dove è sbocciata. Nola, alle porte di Napoli, la cittadina di Giordano Bruno e dei Gigli. Gennaro Romano, quality manager della Romano Trasporti, riavvolge indietro il nastro della storia della sua azienda. La nostra azienda nasce un po' di anni fa. Io e mio fratello, insieme a mio padre, abbiamo raccolto un'eredità fatta di valori, valori d'impresa, e ci è stata affidata la sfida, un po' anche una responsabilità che abbiamo accolto ovviamente con molto piacere, che è quella di usare i nostri valori che venivano dal passato come carburante per alimentare una visione futura del nostro business e della nostra impresa. Quindi senza rinnegare quello che di buono era stato fatto, anzi valorizzandolo, e soprattutto prendendo spunto dai valori chiave che hanno mosso e che hanno spinto mio nonno e poi la mia famiglia a fare impresa in questo settore. Trasportare merci in lungo e in largo per l'Italia e un pezzo di mondo significa adattare le modalità organizzative nel nome di un business che non consente distrazioni. Questione di tempi da rispettare, di qualità del servizio da garantire, in ogni condizione. Col tempo l'attività si è trasformata, ha raccolto le sfide di una competizione giocata su orizzonti sempre più ampi. Rispetto a decenni fa, molto è cambiato. Era un lavoro sostanzialmente diverso da quello insomma, che svolgiamo oggi. Un lavoro in cui anche da un punto di vista strutturale si era un po' più indietro. Si aveva un supporto e un condizionamento tecnologico meno importante, no? Ora, insomma, grazie alle varie evoluzioni possiamo contare su una tecnologia, su un sistema di comunicazione e di relazione, oltre che più competitiva dal punto di vista di costo, anche più flessibile, veloce, dinamica, che però deve essere, attenzione, governata dalle persone, perché poi tutto questo può essere anche un boomerang, nel senso che usare un nuovo canale, un nuovo mezzo, deve rafforzare il messaggio, deve valorizzare le persone che entrano in contatto con attraverso questo mezzo, e non semplicemente uno scambio di informazioni asettico. Quindi a noi che facciamo e studiamo impresa ci viene data la sfida di reinventare un po' il codice della nostra comunicazione senza tradire il valore della nostra comunicazione e il valore delle cose che dobbiamo fare per il territorio. Tecnicamente è cambiato molto, anche dagli strumenti che utilizziamo. Basti pensare alla qualità dei veicoli che si usavano un tempo, alla metodologia di gestione dell'impresa, che era ovviamente ancorata a dei parametri un po' più, come dire, precedenti alla nostra era. Nella trasformazione dei processi, nell'affinazione dei metodi, un'impresa di trasporto viaggia di pari passo con le esigenze dei committenti, spesso adattandosi e nutrendosi delle chance offerte dal mercato. Oggi concepire e gestire un'azienda impegnata nella logistica significa muoversi all'interno di un quadro di sinergie e di confronto sempre aperto a nuove soluzioni. Lo sviluppo tecnologico scandisce i tempi, ma un fattore resta imprescindibile per marchiare il successo di un business, per consolidare l'affermazione di un'impresa. È il fattore umano, al quale spetta l'interpretazione e la gestione di ogni trasformazione. Gennaro Romano, quality manager di Romano Trasporti, sintetizza così la filosofia dell'azienda di famiglia. Oggi l'innovazione tecnologica è un driver importante, ma soprattutto la sensibilità e l'attenzione che si pone alle risorse umane è diventato capisaldo della gestione. Mentre prima, probabilmente, non parlo solo della nostra azienda, ma in generale, il personale veniva visto un po' come un aspetto estremamente, essenzialmente operativo, ora invece abbiamo l'obbligo, il dovere, forse anche il diritto di includere le persone nella governance aziendale, quindi nel partecipare insieme a loro a delle decisioni anche più illuminate del futuro. La Romano Trasporti è specializzata nel trasporto di una categoria di prodotti tra i più delicati, i medicinali. Noi trasportiamo al 90%, al 95% prodotti farmaceutici. Li trasportiamo in Italia, li trasportiamo in Europa, li trasportiamo anche in Nord Africa ed è questo un elemento che ha caratterizzato molto quello che facciamo e soprattutto il come lo facciamo. Il settore che serviamo è un settore estremamente demanding, no? È molto esigente, non solo da un punto di vista di servizio, ma anche da un punto di vista di visione e di cultura di impresa. Quindi, anzi, io devo ringraziare i clienti, perché io imparo ogni giorno da loro il come e come loro fanno impresa. Trasportare medicinali vuol dire effettuare un servizio essenziale per la collettività che va garantito nel rispetto totale di determinate condizioni. Il tempo, innanzitutto. Non sono concessi margini di ritardo. E poi la tutela dell'integrità del prodotto, che va preservata attraverso l'adeguatezza dei mezzi utilizzati per il trasporto. E non solo. I medicinali, soprattutto alcune categorie, costituiscono un valore anche commerciale. Di qui la necessità di innalzare gli standard di sicurezza allo scopo di minimizzare i rischi di furti e rapine. Si sollevano degli aspetti, tre aspetti principalmente: l'aspetto legato alla qualità del servizio e con un'annessa tracciabilità del servizio, l'aspetto legato alla security del servizio, quindi perché parliamo di valori importanti, e l'aspetto legato al safety, cioè alla pubblica sicurezza. E per fare questo la nostra azienda ha investito moltissimo nello sviluppo organizzativo, adottando dei modelli di gestione che sono partiti ovviamente tanti anni fa dalla qualità, quindi dai sistemi ISO 9001, per passare poi ad una serie di modelli di gestione, quindi nell'adozione di modelli calati e specifici per il settore che serviamo. Noi per esempio siamo stati i primi in Italia ad adottare uno schema di certificazione che si chiama GDP, che è uno schema disegnato sulle linee guida che la Comunità Europea ha emanato in merito alla distribuzione di farmaci per uso umano. Quindi noi abbiamo fatto tutto un lavoro di analisi, di studio insieme a degli auditor, abbiamo fatto sì che una importante azienda del settore dell'accreditamento e della certificazione si certificasse e è venuta in azienda a certificare che i nostri processi sono conformi al 100%, appunto, quindi conformi agli standard che la Comunità Europea ci chiede per garantire sicurezza e qualità ai pazienti. Ogni anno la Romano Trasporti gestisce circa 10.000 spedizioni. È stato calcolato che il 99,5% di queste rispettano i tempi pattuiti con i committenti. Gli alti standard di affidabilità dipendono dal fatto che ogni servizio è monitorato costantemente, sulla base del percorso da seguire e quindi di tutte le variabili indipendenti che possono influire sul viaggio: condizioni meteorologiche, traffico, divieti di circolazione. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un gioco di squadra importante, senza un mindset nuovo e senza l'aiuto delle persone, che se non vengono messe al centro della dialettica impresa-territori, impresa-istituzioni, non assumono il ruolo che devono assumere. È un ruolo che gli dà dignità, è un ruolo che gli dà visione, è un ruolo che apporta grandissimi benefici alle imprese e soprattutto ai territori e alle comunità in cui le imprese insistono. Il mondo dell'autotrasporto sta vivendo una fase delicata. La crisi ha picchiato duro sul settore. Traffici calati, imprese costrette a chiudere, decine di migliaia di posti di lavoro in meno. La strada verso la ripresa è incerta, anche per effetto di un mercato sconvolto dalla mancanza di regole. In un quadro di questo genere, le aziende dell'Est Europa possono praticare tariffe stracciate grazie a costi operativi, salariali e contributivi decisamente più bassi. La conseguenza è un sistema squilibrato che penalizza fortemente le imprese della cosiddetta vecchia Europa. Alla guida di un'azienda di successo, Gennaro Romano intravede la prospettiva lungo la quale il settore può incanalarsi per uscire definitivamente dal tunnel. Non ho la presunzione di dire agli altri cosa devono fare. Posso però raccontare che alcuni valori, alcune buone prassi che la nostra azienda ha messo in atto negli ultimi anni hanno veramente fatto sì che si potessero raccogliere i frutti sperati. Intanto mettersi in discussione come imprese e come imprenditori. Quindi quello che un po' diceva banalmente, non molto banalmente, Gandhi, sii il cambiamento che vuoi vedere. E quindi metti in discussione te stesso, approccia altre discipline, altri punti di vista, in modo da arricchire la tua visione e far sì che tutti i tuoi interlocutori ne escano arricchiti. Quindi mettersi in discussione, fare sempre il primo passo verso il cambiamento. Valorizzare le persone che in un modo o in un altro entrano in contatto con la tua organizzazione. Rivedere i rapporti di forza e le possibilità di interlocuzione tra impresa, istituzione e territorio è fondamentale. L'impresa deve includere nel suo discorso il territorio. Deve includere nel suo discorso le istituzioni. Non deve essere semplicemente un rapporto di controllo o di governance, deve esserci un rapporto di fiducia, deve esserci un rapporto in cui tutti crescono, tutti abbandonano una porzione di beneficio, abbandonano un po' la loro zona comfort e si apprestano a vivere l'impresa in un altro modo. Io non so quanta probabilità ci sia che il trasporto N.0 possa essere frutto di questi di queste indicazioni. So che però c'è bisogno di un nuovo trasporto. So altrettanto con certezza che c'è bisogno anche di nuovi imprenditori, di una nuova classe dirigente. E mi piacerebbe tanto che le nuove persone che vivranno il futuro del trasporto siano persone che ci tengono alle persone. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.